cose son solo e non mi tocca discutere di niente, amare, disperare, che se sbaglio non importa più a nessuno. Mi sento in paradiso con un giro tondo, un supplì di riso che crocca dentro un forno. Stella col mio sguardo e non mi sembra ammissibile.